Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. L'abbiamo vista tutti la sua immagine ieri appeso ad una parete della scuola Rosa Luxemburg di Torino nel giorno della protesta in piazza De Cobas contro Italia. Allora sentiamo chi è Wolfgang Sbadia, rappresentante De Cobas a Torino e prof. L'ha intervistato Alice Cason. Io non credo molto alle dimostrazioni individuali. Ho sempre creduto alle manifestazioni, alle migliaia di studenti, di insegnanti. Stamattina c'erano anche metalmeccanici Cobas che protestavano, e ho fatto questa azione individuale questa volta per una mia personale esasperazione nei confronti del disinteresse del governo nei confronti della scuola, degli enormi tagli che ha fatto la scuola. E mentre è vero che c'è la crisi, che mancano i soldi, che eccetera, però in Germania c'è la crisi ugualmente, ma il più grosso investimento che hanno fatto quest'anno è stato sulla scuola. Noi siamo qua che spendiamo miliardi di euro per cacciabombardieri. Cosa insegna lei? Insegno diritto e economia, però insegno anche un po' scacchi. Non sono un precario, ho cominciato a insegnare nel 76, sono a fine carriera, tra l'altro oltre ai precari patiscono anche gli insegnanti che sono a fine carriera, perché non ci hanno rinnovato i contratti, hanno bloccato gli scatti e quindi andremo in pensione fortemente penalizzati. Quello che è grave è che la scuola è abbandonata. La scuola che vuole formare prima di tutto delle persone e dei cittadini, un principio a noi caro qui ad Obbligo di Frequenza. Questo è uno degli esempi che ci piace raccontare. Siamo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. A guidare il liceo scientifico Tosi è Giulio Ramolini. La settimana scorsa avete portato i vostri studenti a fare una gita scolastica molto particolare, non siete andati in Spagna? No. No, siamo andati solo fino al Tribunale di Busto Arsizio. A fare che? Per assistere alla prima udienza di questo processo all''Ndrangheta, che era stato anche poi menzionato dai principali telegiornali, perché c'era stato un intervento notevole di polizia e carabinieri nella zona nei mesi scorsi, no? Fra Busto Arsizio, Lonate Pozzolo, Samarate, Gallarate, e avevano in questa retata preso numerose persone che erano colluse o sembravano colluse con l''Ndrangheta, no? Che è, insomma, l''Ndrangheta è arrivata al nord ormai da tempo, sì, beh, tutte da le tempo, indagini, no? Da tempo, lo dimostrano, e lei ha deciso di portare i ragazzi ad assistere all'udienza, allora, del sì, processo. Perché? C'è stata offerta l'opportunità di partecipare a questa prima udienza di un processo che non è usuale qui dalle nostre parti, e poiché noi abbiamo in ballo già dall'anno scorso un progetto che è quello che dicevo prima di educazione alla legalità, che si inserisce in un ambito più ampio che quello della cittadinanza, no? Perché uno degli obiettivi ambiziosi del nostro liceo è di fare di questi ragazzi, e non solo di abilitarli alla frequenza dell'università, ma di fare dei cittadini, no? Degni di questo nome. Allora, l'educazione alla legalità è sicuramente uno degli obiettivi principali. I ragazzi sono arrivati lì e hanno tramite una maglietta detto no a questo tipo di collusioni mafiose. Hanno capito, punto. I ragazzi avrebbero preferito una gita scolastica un po' diversa. No, che faccia hanno fatto hanno... quando gli avete proposto questa iniziativa? Allora, ai ragazzi piacciono molto anche le gite, come chiamiamo le gite scolastiche, logico, però nell'ambito di questa educazione che dicevamo e che portiamo avanti da anni, hanno apprezzato molto questa iniziativa, anzi qualche classe si è lamentata, però i posti erano molto limitati e abbiamo dovuto fare una scelta, quindi c'è molto interesse in questo senso e molta partecipazione attiva e responsabile. E arrivati lì, che cosa hanno detto, che cosa hanno visto, quali sono state un po' le reazioni? Ma le reazioni sono state di stupore quando si sono accorti che erano gli unici, diciamo così, extra parenti, amici, mogli, eccetera, che partecipavano a questa udienza pubblica, per cui questo li ha colpiti molto. Perché il vostro progetto si avvale anche della collaborazione dell'Associazione Antimafia Ammazzateci Tutti. Allora, il nostro progetto si avvale sicuramente di questa collaborazione perché il Trade Union è il presidente di questa associazione, il presidente della delegazione regionale, no, di questa associazione, che è proprio un ex studente del liceo che già l'anno scorso era venuto a sottopormi il progetto e che stiamo portando avanti con loro. E che non finisce qua? Non finisce qua, prevede come progetto molto ambizioso che stiamo cercando di portare avanti con la collaborazione sempre dell'associazione di cui dicevamo prima, di uno scambio tra una scuola, un liceo di una città, di una località della Calabria e il nostro liceo scientifico. Per andare giù e capire davvero come si vive, esatto, no? In questi, esatto, paesi. Sì, sì, sì. Insegnare i classici a scuola o abolirli? Un dibattito che si è aperto da qualche tempo e nel quale entra a gamba tesa lo scrittore e poeta Davide Rondoni, che ha da poco pubblicato il pamphlet Contro la letteratura, poeti e scrittori, una strage quotidiana nella nostra scuola, edito dal Saggiatore. In questo piccolo saggio Rondoni propone che l'insegnamento della letteratura nelle scuole superiori sia facoltativo. Perché? Ce lo spiega lui stesso al microfono di Alessandra Tedesco. È una proposta che parte dalla lettura della realtà, cioè i dati statistici, ma anche l'esperienza così elementare che ciascuno può fare, ci indica che la letteratura, i grandi capolavori, eccetera, escono quasi sempre dalla scuola, dall'esperienza scolastica, martoriati o comunque poco gustati. Sì, ci sono tanti insegnanti bravi, è vero, ma i dati ci dicono che i ragazzi italiani escono dalla scuola senza più voglia di leggere e i capolavori che incontrano lì, Dante, Manzoni, Leopardi, sono molte volte, troppe volte trattati come una materia noiosa da studiare invece che come uno dei punti in cui la persona si può entusiasmare a contatto con il bello, con il profondo, con il ricco della vita. Ecco, lei però dice non ce l'ho con la scuola o con i professori, e allora di chi è la colpa? Ma la colpa è sempre delle persone, quindi anche dei professori sicuramente, ma anche di chi ha steso i programmi, anche di tutti coloro che hanno formato i professori nella scuola, quindi risolvendo per i rami certi problemi dell'università, è colpa anche degli scrittori che magari non fanno attenzione a queste cose, è colpa forse di una generale pigrizia a cambiare le cose ed è colpa anche di una generale incuria. Certo che nella scuola i professori sono la parte più importante, quindi io mi rivolgo a loro dicendo io scommetto sulla vostra libertà e sulla voglia che avete per cui avete iniziato a fare questo mestiere, proviamo a renderlo facoltativo, cioè proponetelo per 2 o 3 mesi ai ragazzi, la proposta di leggere e gustare insieme dei testi. Poi dopo 3 mesi, se i ragazzi non vi seguono, dire che non siete bravi, perché dovunque un ragazzo incontra un adulto che legge appassionatamente Dante, Manzoni, Leopardi, ma anche contemporanei, i ragazzi seguono, altro che se seguono, si appassionano. Nel dibattito interviene anche un altro scrittore, Alessandro Baricco. Ha da poco pubblicato una versione riveduta e corretta del Don Giovanni, scritta appositamente per bambini, un modo per far avvicinare anche i più piccoli ai classici. Ma come la pensa sui classici a scuola? Ha ancora senso proporli o addirittura imporli agli studenti? Sentiamo Baricco, sempre al microfono di Alessandra Tedesco. Mi sembra una riflessione che bisogna fare, sicuro, perché in teoria sì, sarebbe senz'altro utile, diciamo. Però certo molto dipende da come la si fa, ecco, tutti noi, la maggior parte di noi ha figli, insomma, vede cosa significa poi nella prassi quotidiana quella scelta di fare i classici a scuola, dipende enormemente dai professori, dipende anche un po' dai libri di testo, ma direi soprattutto dai professori, ecco, e quindi una bella riflessione, anche l'opportunità e la possibilità per i professori di poter studiare di più, di studiare meglio, di essere pagati per studiare, non solo per insegnare, poter avvicinarsi al problema della lettura di questi classici con tempo, con riflessione, bisognerebbe dargli questa chance, perché di per sé l'idea è buona, ma insomma la pratica poi ogni tanto ti spinge a chiederti perché, questo è in dubbio. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.